Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nord e Sud, due termini che non designano solo due concetti geografici, ma anche due poli gerarchizzati. Il nord del mondo, ricco e florido, e il sud del mondo, più povero e problematico. Centinaia, forse migliaia di libri sono stati scritti su questo dualismo, in tutti i campi, i settori e i luoghi geografici in cui esso è applicabile. Oggi, a Destini Incrociati, vogliamo applicare questo principio a uno dei settori nazional-popolari per eccellenza, il calcio. In particolare, il nostro campionato di calcio. Il campionato italiano di football, così si chiamava il calcio importato in Italia dai pionieri inglesi, nasce nel 1899. Il primo titolo viene vinto dal Genoa, una delle due squadre partecipanti. Poi il numero di team si amplia, ma la maggior parte di essi provengono da una precisa area geografica, il nord-ovest, con particolare concentrazione nel cosiddetto triangolo industriale Milano-Genova-Torino. Dopo varie peripezie, cambiamenti di formula, tentativi di completa italianizzazione e svolte autocratiche, il calcio italiano arriva nel 1929 alla nascita della formula del girone unico, un unico raggruppamento di 16 squadre che si affrontano in partite di andata e ritorno, secondo il modello del campionato inglese. Nasce di fatto la Serie A. Diamo una scorsa alle squadre che più volte hanno vinto il titolo nazionale dalla nascita del girone unico ad oggi. In cima troviamo la Juventus, squadra fondata a Torino nel 1897 con 25 successi, a cui se ne aggiungono due ottenuti prima che la Serie A nascesse. Poi ci sono le milanesi, l'Inter, con 16 titoli nell'era del girone unico e due ottenuti prima, e il Milan con 14 più 3. Poi, una dietro l'altra, il Genoa, il Torino, il Bologna. La Pro Vercelli vanta 7 titoli ottenuti prima del girone unico. Dalla squadra piemontese in giù c'è un abisso, quello che separa queste squadre, tutte del nord, dai 3 titoli ottenuti da una delle squadre della capitale, la Roma. Roma ci siamo, aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene. È quantomeno significativo che le due squadre della capitale, la Roma e la Lazio, vantino solo rispettivamente 3 titoli nazionali e 2. Segno di uno squilibrio evidente, di una geografia calcistica che marca in maniera netta la distribuzione dei poteri, con un sensibile sbilanciamento verso il nord dell'Italia del pallone. La storia che vi andiamo a raccontare oggi parla di una sorta di ribellione a questa costante supremazia delle squadre del nord, delle milanesi e della Juventus in particolare. Una rivolta che si esprime a cavallo tra gli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio e ha come protagonisti i nostri due personaggi di oggi, due dei migliori giocatori italiani degli ultimi anni. Roma, via del Casale di San Basilio 262. È l'indirizzo del centro sportivo Francesca Gianni, sede della Lodigiani Calcio, una delle squadre minori di Roma dotata di un settore giovanile molto florido. Qui nel 1988 si affrontano per il campionato esordienti proprio la Lodigiani e la Lazio. I piccoli giocatori in campo hanno 12 anni e sono ancora fortunatamente lontanissimi dagli eccessi e dalle esasperazioni del calcio professionistico. Si gioca però pur sempre una finale. In campo, uno con la maglia della Lazio, l'altro con la maglia della Lodigiani, due giovani promesse che si sfidano sul campo inconsapevoli del destino che li attende. Rendere grande il calcio romano, tentare di spezzare il dominio delle milanesi e della Juventus. Uno moro, l'altro biondo, uno difensore, l'altro attaccante. Le loro vite, le loro carriere sono destinate a scorrere parallele e a incrociarsi più volte. Sono i nostri personaggi di oggi. Il primo dei due si chiama Alessandro Nesta. Alessandro Nesta. Cinecittà, una tranquilla famiglia romana di fede laziale. Un giovane timido, introverso, che mostra subito un talento enorme per il pallone. Inizia così la storia di Alessandro Nesta, ancora oggi a 34 anni, uno dei più forti difensori centrali del mondo. Forse il calcio, quando ero più piccolo, era però un modo per tirar fuori quello che non riuscivo, per la timidezza, tirare tira fuori quando stavo così con i compagni, con gli altri miei amici. Alessandro nasce il 19 marzo del 1976. Il padre è ferroviere, la madre è casalinga. Inizia a giocare a calcio molto presto nel Cinecittà, la squadra del suo quartiere. E all'età di 8 anni viene scoperto da Francesco Rocca, talent scout della Roma. Il padre, laziale nell'anima, rifiuta l'offerta del club giallorosso e lo porta a fare un provino con il team biancoceleste. Il 13 giugno 1985 il giovane Nesta entra nelle giovanili della Lazio. Il 13, il suo numero, un numero che lo accompagnerà per tutta la carriera. Ah, l'imbarazzo più grande era quando, ho detto sempre, il mio carattere molto timido, molto, quando io stavo in una classe. Avevamo, non so, 25 persone, due maschi, tutte le altre ragazze, c'erano ripetenti anche, perciò stai anche con delle ragazze più grandi, venivano ogni tanto, io bambino, venivano, facevano qualche cosa, cavasse loro più, molto più sveglie di me, e io dormivo, mi rendevo conto che dormivo, ho detto, adesso a distanza di anni pensi, dice, mamma mia. Nesta fa tutta la trafila nelle giovanili della Lazio. Quando è piccolo gioca in attacco. Giocavo in attacco quando ero piccolo perché, come tutti i bambini, piace far gol. Fare difensore non piace a nessuno, giustamente. E poi con il tempo sono cresciuto più degli altri bambini, e un po' non avevo le movenze di un attaccante. Allora piano piano sono retrocesso, sono andato a centrocampo, dove ho giocato fino in primavera, prima di entrare in prima squadra. E poi sono cresciuto ancora, mi hanno detto va dietro, che forse prendi qualche palla. Quando affronta la Lodigiani in quel match del 1988 che abbiamo rievocato poco fa, Nesta è già capitano degli esordienti Lazio. Gioca a centrocampo e fa intravedere alcune di quelle che diventeranno le sue caratteristiche. Testa sempre alta, grande senso dell'anticipo, incredibile capacità di leggere le intenzioni degli avversari. A fine partita corre dal padre a chiedere come ha giocato e a riscuotere il suo premio partita, 3.000 lire per un gelato. Entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare. Ma Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. La prima squadra della Lazio, nel frattempo, è da poco tornata in Serie A. Sprofondata infatti nella serie cadetta insieme al Milan all'inizio degli anni 80 per lo scandalo scommesse, il club biancoceleste sfiora la Serie C quando nel 1986-87 subisce una penalizzazione di 9 punti per un nuovo caso scommesse. La Lazio si salva miracolosamente dalla C dopo uno spareggio a 3 con Campobasso e Taranto. Va a stoppare il pallone all'indietro per caso, ancora caso, salta l'avversario, va a allargare tutto il gioco sulla sinistra, azione molto prolungata di Piscetta per Rempoli, il gol! Il gol di Poli! Il gol di destro di Poli! E ora passa in vantaggio! L'anno dopo quindi la Lazio torna in Serie A e grazie alla gestione attenta del presidente Gianmarco Calleri occupa un posto stabile nelle zone di alta classifica. È il 1992. La Lazio viene acquistata dall'ambizioso imprenditore romano Sergio Cragnotti, patron della Cirio. Il nuovo presidente decide di investire a fondo nella squadra biancoceleste. Arrivano acquisti miliardari uno dopo l'altro. Veron, Vieri, Crespo, con cui la Lazio batte ogni record di cifra per il calciomercato. L'acquisto più importante però si chiama proprio Alessandro Nesta. Nel 1993 l'allenatore della Lazio, Dino Zoff, decide di portarlo in ritiro con la prima squadra in Austria. Alessandro ha da poco compiuto 17 anni. In ritiro si comporta già benissimo. I suoi prestigiosi compagni di squadra, attaccanti abituati a palcoscenici blasonati, si lamentano spesso perché Sandro, in allenamento, gioca come in partita ed entra duro. Poi una mano tesa come si fa tra uomini e via, di nuovo a testa alta. Picchiare non sono capace. Prima si diceva palla o gambe, perciò io non sono capace a far fallo. Se facessi un fallo, che voglio fare un fallo, Non mi viene proprio, sono capace. Sei mesi dopo, il 13 marzo 1994, sei giorni prima del suo 18esimo compleanno, arriva l'esordio in Serie A, in un Udinese-Lazio. Gioca solo 12 minuti, subentrando a Pierluigi Casiraghi. L'esordio vero e proprio arriva l'anno successivo, quando sulla panchina biancoceleste siede Zdenek Zeman. 15 gennaio 1995, sedicesima giornata di campionato. Allo Stadio Olimpico, davanti a 43.000 spettatori, si fronteggiano la Lazio di Zeman e il Foggia, l'ex squadra del tecnico Boemo. Al 29esimo del primo tempo, Giuseppe Favalli, titolare della difesa della Lazio, si fa male. Cambio. Al suo posto entra Alessandro Nesta. La fortuna ha fatto la sua parte, perché poi ci sono circostanze che se non hai un po' di fortuna non riesci a proporti, l'infortunio di un tuo compagno. E tu parti sempre che in panchina, poi si fanno male due o tre giocatori, tu hai la possibilità di farti vedere, sfrutti l'occasione e sei dentro. A me è successo, una partita Lazio-Foggia, oltre a, già ho fatto l'esordio, ma due minuti, cinque minuti. Lazio-Foggia è successo che il mio compagno si è fatto male dopo 10 minuti, sono entrato, abbiamo vinto 7-1, una partita rimasta nella storia, e che però la fortuna lì, perché Favale, il mio compagno, si è fatto male, se non si fosse fatto male io non mi sarei mai fatto vedere, sarei stato sempre il ragazzino della primavera, quale, quello lì, un po' alto, secco, Perciò la fortuna conta molto. Da quel momento Nesta entra nell'orbita dei titolari della Lazio. Sotto la guida di Zeman, i biancocelesti, alternando partite memorabili a incredibili figuracce, arrivano secondi dietro la Juventus di Marcello Lippi. Dal 1995-96 Nesta è titolare inamovibile nella difesa della Lazio. Nel cielo bianco-azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio sul prato verde vola, Lazio, tu non sarai mai sola. Nel frattempo Sandro entra anche nel giro azzurro, facendo tutta la trafila nelle nazionali minori. La prima maglia azzurra l'ho indossata a 15 anni, che c'era il famoso Under 15, queste nazionali giovanili. Poi vabbè, quella importante, diciamo, l'Under 21, la prima importante. E poi è stato tutto una catena. Io ho fatto una finale dell'Europeo con l'Under 21, che abbiamo vinto l'Europeo in Spagna, a Barcellona. Finita la partita, mentre festeggiavamo, è arrivato il mister Cesare Maldini che mi ha detto che si era fatto male un giocatore della Nazionale A e io devo andare a fare gli europei con la Nazionale, quella vera. Perciò è stato tutto una cosa di emozioni, tutte insieme, la vittoria, la Nazionale, forse calcisticamente uno dei giorni più belli della mia vita. Nesta ha soli 20 anni, va all'Europeo del 1996, che si gioca in Inghilterra, convocato da Arrigo Sacchi. Non gioca nemmeno un minuto nelle tre sfortunate partite che l'Italia gioca. Arrigo Sacchi lascia la nazionale. Viene promosso CT Cesare Maldini, selezionatore dell'Under 21 di cui Nesta era capitano. Sandro diventa titolare anche in nazionale maggiore e non ne esce più. Titolare e leader della difesa nell'ambiziosa Lazio di Cragnotti, centrale della nazionale, erede naturale di Franco Baresi nella nazionale maggiore, a poco più di 20 anni il cartellino di Nesta sfiora i 40 miliardi di lire. La carriera precocissima di Nesta ha preso il volo e vedremo tra poco in che modo il difensore saprà guidare la sua squadra alla riscossa contro lo strapotere delle squadre milanesi e della Juventus. Negli stessi anni però anche quel ragazzino biondo che abbiamo visto affrontare Nesta nella finale del campionato regionale giovanile e che in quella partita era stato in grado di segnare il gol decisivo addirittura su punizione e sotto gli occhi di Sandro inizia la sua ascesa. Il suo nome? Francesco Totti. Francesco Totti. Francesco Totti nasce a Roma il 27 settembre 1976 nel quartiere Appio Latino, vicino a Porta Metronia. Mamma Fiorella racconta in un'intervista a un quotidiano sportivo i primi contatti di Francesco col pallone. Abitavamo a Via Vetulonia con i miei genitori. Stavano molto male, tutti e due, e io non volevo che Francesco vedesse i nonni soffrire, così lo portavo a giocare al pallone. Da prima sotto casa, poi a 6 anni alla Smith di Trastevere. Si vedeva fin da piccolo che era forte di gambe. Quando aveva 9 mesi siamo andati in villeggiatura sull'Adriatico. Lui camminava già sulla spiaggia spingendosi un pallone, faceva ridere tutti. Le foto le ho ancora. Lui il pallone ce l'aveva dentro. Il ruolo occupato in campo è quello del centrocampista, scelta quasi obbligata, data la classe cristallina che il futuro pupone esibisce nonostante la giovane età. Ero un paraculo. Ero un paraculo, nel senso ero uno non mi fermavo mai, ero socievole, ero un po' pigro, tuttora. Però sì, però appena l'importante è che avevo un pallone addosso tra i piedi. Nel 1986 arriva il passaggio alla Lodigiani, squadra giovanile molto rinomata, primo passo importante verso il calcio che conta. Qui Totti è allenato prima da Mastro Pietro e poi da Emidio Neroni, due figure importanti per la sua crescita sportiva. In questi anni Francesco inizia a fronteggiare Alessandro Nesta sul campo, ma non sono ancora derby. Dopo altre due stagioni però, alla famiglia Totti viene sottoposto lo stesso dilemma affrontato poco tempo prima dalla famiglia Nesta. La Lodigiani fa presente che Francesco fa gola sia alla Roma che alla Lazio. Così come il padre di Alessandro, laziale puro sangue, non aveva avuto esitazioni, così nessuna esitazione si presenta ai genitori di Francesco. Il giovane centrocampista di Porta Metronia approda a Trigoria nel 1989, iniziando la sua carriera in giallorosso, partendo dalle giovanili, con un idolo ben preciso in testa. Il capitano della Roma, Giuseppe Giannini. Era... Che era anche molto bello, devo molto. Dire. Mi piaceva pure a me che ero maschio, però vabbè, mi piaceva perché era bello, era bello. Il principe, capelli lunghi, la maglietta da Roma, forse poi giocandoci insieme faceva un altro effetto. Alessandro Nesta e Francesco Totti, due destini incrociati e paralleli, due giovani ragazzi di Roma che crescono con il pallone nel loro futuro, divisi dalla fede calcistica e dalla maglia indossata. Bianco-celeste per il primo, giallo-rossa per il secondo. Uno contro l'altro, per fare grande Roma. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati abbiamo raccontato i primi calci al pallone di due giocatori che faranno grande Roma su entrambe le sponde, quella bianco-celeste e quella giallo-rossa. Si tratta di Alessandro Nesta e Francesco Totti. Oltre a essere coetanei e a guidare le selezioni giovanili di Roma e Lazio a partire dalla fine degli anni Ottanta, i due calciatori hanno un'altra cosa in comune, un allenatore decisivo, Zdeněk Zeman. Due sono allenatori che mi hanno insegnato un po' tutto, diciamo, sia in campo che fuori. Mazzone quando ero giovane e Zeman quando ero in rampa di lancio, diciamo. E ancora oggi ringrazio perché è anche grazie a loro che sono arrivato fino a questo punto. A farlo esordire in realtà è un terzo allenatore, Vujadin Boshkov, che lo getta nella mischia a partita in corso durante Brescia-Roma del 28 marzo 1993, quando Francesco non ha ancora compiuto 17 anni. Poi arriva Mazzone, che inizia a tenerlo sempre più in considerazione. Mazzone mi ha gestito nel migliore dei modi, anche perché ero giovane. Quando sei giovane, soprattutto in questo ambiente come Roma, è difficile rimanere a certi livelli. E lui, essendo romano, avendo la caparbietà e l'insegnamento come un padre, mi ha dato questo. Quindi, nel momento in cui il tecnico boemo Zdeněk Zeman passa clamorosamente dalla Lazio alla Roma, Totti diventa il leader dei giallorossi, divenendo uno dei rifinitori più forti d'Italia ed Europa. Il suo destino inizia a intrecciarsi a quello di Nesta anche nel giro della nazionale. Insieme al rivale, porta l'Italia Under 21 a vincere l'Europeo nel 1996. Ormai sono i gioielli di punta del calcio italiano. Mentre sulla sponda biancazzurra Sergio Cragnotti investe e riporta le aquile laziali ai vertici del calcio italiano, i giallorossi beneficiano degli investimenti di Franco Sensi. Il derby capitolino torna a essere uno scontro al vertice che vede Totti e Nesta sempre più protagonisti. Dal 1997 Alessandro, a soli 21 anni, diventa titolare nella nazionale allenata da Cesare Maldini. L'anno successivo parte con gli azzurri per il mondiale che si gioca in Francia. Nel mondiale 1998 Nesta c'è, Totti no. È l'ultima volta. Dall'europeo successivo saranno insieme a guidare l'Italia. Alessandro però inizia il suo travagliato rapporto con la maglia azzurra nel peggiore dei modi. Gioca due ottime partite contro Camerun e Cile. Nel terzo match del girone contro l'Austria si fa male al ginocchio destro. Rottura del legamento crociato anteriore e al collaterale. Addio mondiale e 5 mesi di stop. Le due stagioni che portano al 2000 segnano la definitiva esplosione di Alessandro e Francesco. Il primo si riprende dall'infortunio e diventa semplicemente il miglior difensore centrale del mondo. Veloce, piede morbido da centrocampista, visione di gioco da regista arretrato, intelligenza tattica fuori dal comune, che gli permette di capire sempre prima le intenzioni dei suoi avversari. Nesta finisce in cima al taccuino dei più importanti club del mondo, uno dei pochi difensori nella scena internazionale in grado di determinare le sorti di una partita quasi quanto un attaccante. Totti, dal canto suo, laterale sinistro del tridente offensivo della Roma, segna a ripetizione. La Roma non riesce a centrare grandi obiettivi, ma il pupone, come lo cominciano a chiamare, diventa sempre più il leader della squadra. Nel 1998 Totti diventa capitano della Roma. Pochi mesi dopo, Nesta quello della Lazio. A lasciare a far l'amore e a togliersi dai guai. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. E tutti eroi. Generazione di fenomeni. Ma come noi. Generazione di. Il 29 giugno 2000, Amsterdam. Va in scena la semifinale del campionato europeo di calcio. L'Italia sfida i padroni di casa dell'Olanda, super favoriti per la vittoria finale. Lo stadio è un'autentica bolgia olandese. Zenden, Tunnel di Zenden, fallo di Zambrotta, attenzione! Zambrotta è già stato ammonito! No, fallo di Zambrotta, secondo cartellino giallo, e questa non ci voleva, espulsione di Zambrotta. La partita è di quelle epiche, di quelle che fanno la storia del calcio. Sfavorita dai pronostici, con tutto il tifo contro, l'Italia, allenata da Dino Zoff, rimane in 10 uomini dopo soli 30 minuti. Gianluca Zambrotta, laterale destro della Juventus, cade nella trappola orange. Un arbitro decisamente ostile gli affibbia un primo giallo a dir poco assurdo. Poi gli assi orange, Overmars, Davids, Kluivert, lo puntano a ripetizione, cercando il secondo giallo, che arriva. E questa non ci voleva, espulsione di Zambrotta. Quello che succede dopo è assolutamente memorabile. L'Olanda attacca in massa. Gli azzurri semplicemente resistono. Toldo in porta para tutto il parabile e anche di più, diventando l'eroe della serata. Ma davanti a lui Alessandro Nesta cancella letteralmente dalla partita Patrick Kluivert, attaccante olandese che dirà a fine partita: giocare lì in mezzo a Nesta e Cannavaro per me è stato un incubo. Al 38esimo del primo tempo e all'inizio della ripresa, l'Olanda sbaglia 2 rigori, uno dei quali magnificamente parato da Francesco Toldo. La partita finisce ai calci di rigore. Dino Zoff, CT azzurro, aveva inspiegabilmente lasciato fuori dagli 11 titolari Francesco Totti, che fino a quel momento aveva giocato un grandissimo europeo. Al 37esimo del secondo tempo, Totti entra. Rischia di cambiare la partita già nei supplementari, quando porta ossigeno al bunker azzurro, innescando travolgenti contropiedi che per poco non portano al vantaggio. Poi, ai rigori, si prende la responsabilità di calciare e dà una versione tutta sua del concetto di freddezza. Segna anche non ci Totti. Credo. Totti ha rischiato l'impossibile. L'incredulità di Pizzul e di Pecci in telecronaca è quella di tutti gli italiani a casa. Il rigore decisivo della semifinale viene calciato da Totti con un cucchiaio, un pallonetto morbido che spiazza il gigantesco Van der Sar e si insacca sotto la curva degli attoniti tifosi olandesi. La loro nazionale, bloccata dalle mani di Toldo e dalla classe di Alessandro Nesta, viene giustiziata da Francesco Totti e lascia la competizione. Io sono cresciuto a Cinecittà e ogni mondiale, ogni europeo, c'era la cosa che si addobbavano i palazzi, proprio in un palazzo grandissimo, 8 piani, però era lunghissimo, e c'era proprio la moda, la cosa di fare ogni palazzo, tutti i palazzi con i colori dell'Italia, le cose. E poi c'era, vicino a casa c'era anche un portico grande dove la signora di Soro portava giù il televisore, si metteva il televisore, scendevano la gente con le sedie, tutti intorno e si guardava la partita sotto al palazzo. Perciò si viveva proprio a vedere la gente impazziva per questa cosa, per il gol, quando segnava si sentiva da fuori Roma. E tutto un tratto ti trovi tu dall'altra parte, cioè gli altri che ti guardano. E perciò è strano quello, perché tutto un tratto ti capita un giorno, piace un allenatore e ti ritrovi dall'altra parte. È talmente veloce la cosa che forse non ti rendi neanche conto bene il passaggio, non te lo gusti neanche. Ti ritrovi di là come un sogno. Mezza Roma tifa per Nesta, mezza Roma tifa per Totti nella finale di Euro 2000. I due giocano una partita superlativa. Il primo non fa vedere palla a Zidane e Henry. Il secondo viene eletto Man of the Match per i numerosi assist dispensati ai compagni, di tacco, di prima, al volo. Assist sprecati. La Francia vince 2-1, sfruttando l'eccessivo attendismo degli azzurri e uno svarione difensivo, l'unico dell'europeo, di Fabio Cannavaro. Nesta, la più grande soddisfazione della sua carriera, però, se l'era già tolta un mese prima. Alla fine della stagione 1999-2000, la Lazio diventa campione d'Italia, rompendo il dominio di Juventus e Milan. L'anno dopo toccherà alla Roma di Totti. Fra poco, a destini incrociati. Ti ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate? Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Destini incrociati. Alessandro Nesta e Francesco Totti, due anime opposte ma complementari della Roma calcistica a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio. Proprio nella stagione 99-2000, Nesta, capitano della Lazio a soli 23 anni, guida la sua squadra al secondo scudetto della sua storia. La Lazio! Vai sul campo, che... La festa bianca azzurra! Campionato e Coppa Italia 1999-2000. Una stagione che si era aperta con la vittoria in Supercoppa Europea contro il Manchester United, seguita al trionfo in Coppa delle Coppe nell'estate del 99. Alessandro, da giovanissimo capitano laziale, alza al cielo i trofei che significano il coronamento di un sogno. Un sogno vissuto però con i piedi ben piantati a terra. Siamo una famiglia semplice, nel senso veniamo da mio padre ferroviere, mia madre casalinga. Veniamo da una famiglia normale e perciò siamo abituati a un certo tipo di vita. Poi la mia famiglia si è trovata che io inizio a giocare a calcio e è cambiato qualcosa, perché le attenzioni erano diverse, è tutto diverso, è cambiato molto. Però abbiamo cercato di, capito, questo è un lavoro per me, come io che vado in fabbrica, un giorno vado a lavorare, torno a casa e tutto come prima. Perciò siamo riusciti a dividere questa valanga che ce l'ha addosso, che è il calcio, da tutto quello che era il resto. I nipoti, i bambini, mio fratello, mia madre, mio padre, tutto quello che credo, quella è un'altra cosa, fuori dal calcio. In questo Alessandro è diverso da molti suoi colleghi calciatori. Non sentirete mai una sua intervista fuori posto, una frase contro un collega, un'uscita scomposta. Nesta tenta laddove possibile di sottrarsi all'esposizione mediatica e di dividere il calcio dalla vita privata. Mia madre cioè non capisce niente di calcio, cioè non perché ha vissuto un'altra epoca, perciò il calcio l'ha vissuto con me e basta, perciò non è che sia un'esperta di calcio, però ha visto le partite perché mi segue molto, perciò lei guarda solo me, spera soltanto che non mi faccio male, poi come va la partita è contentissima se vinco, se perdo, pazienza. Dopo lo scudetto laziale, nella stagione successiva, il 2000-2001, il tricolore passa dall'altra parte del Tevere. Questa volta è la Roma di Totti, guidata in panchina da Fabio Capello, ad aggiudicarsi lo scudetto. Della Roma è pesantissimo, perché levaglielo ai cugini, penso una soddisfazione immensa. Hai sofferto tanto l'anno scorso. Sì, ho sofferto anche perché ultimo giorno della Punta Lazio sono partito, perciò. Grande rivalità, quindi. Due stili diversi. Due giocatori diversi legati da grande stima, dall'avventura comune in nazionale e dalla classe immensa. Dalla stagione 2001-2002, però, qualcosa cambia. La Roma continua a rimanere ai vertici del campionato italiano, anche se il presidente Franco Sensi lascia progressivamente il controllo della società alla figlia Rosella, che imposta una politica un po' più austera in fatto di acquisti sul mercato. La Lazio, invece, viene travolta dal crack finanziario della Cirio e scopre la dura realtà di un ridimensionamento. Le voci su cessioni illustri iniziano a circolare e naturalmente riguardano soprattutto il capitano, Alessandro Nesta. Qualcosa, nella serenità di Alessandro, si guasta proprio nel momento peggiore per i tifosi laziali. Il derby. Totti salta Fiore, salta Gianni Chedda, se ne va superando anche Fernando Couto, crea la superiorità numerica, il destro, la respinta di Peruzzi, Nesta è lì, ma Montella lo brucia ancora una volta. Nel derby di ritorno a marzo, Nesta sembra come frastornato e non riesce ad arginare Totti e Montella. Finisce 5-1 per la Roma, in una delle pagine più buie della Lazio e della carriera di Sandro Nesta. L'estate del 2002 vede i mondiali in Giappone e Corea e vede Nesta e Totti sfortunati protagonisti. Il primo si fa male prima della partita decisiva contro i padroni di casa coreani. Il secondo viene espulso dall'inguardabile arbitro Moreno nei vergognosi supplementari di quel match. L'Italia torna a casa. Cadendo intanto Montella, sfiora il pallone Vieri, attenzione Totti, Totti, Totti in area di rigore. Rigore no. Laggiù vediamo, qui adesso lo ammonisce, attento. Ma no, adesso non dice questo, non esiste. Allora va bene. Per tutto il mondiale si inseguono le voci che vorrebbero Nesta in procinto di lasciare la Lazio. Alessandro non vorrebbe. È anche entrato nel consiglio di amministrazione della società, convertendo alcuni stipendi arretrati in azioni. Ma l'Inter sembra vicinissima. Poi succede che i nerazzurri virano su Cannavaro e che il 31 agosto del 2002, ultimo giorno del calciomercato, Alessandro Nesta, a 26 anni, viene acquistato dal Milan. Roma brucia di rabbia contro il presidente Cragnotti, che cerca di scaricare la colpa sul giocatore. In realtà Nesta accetta a malincuore di lasciare la sua città, proprio perché gli oltre 30 milioni di euro che il Milan di Silvio Berlusconi spende per il suo cartellino contribuiscono a salvare la Lazio. Alessandro a Milano diventa l'erede di Franco Baresi, supera le difficoltà iniziali e va a formare con Paolo Maldini una coppia centrale pressoché insuperabile. Le strade dei due campioni si separano per incrociarsi ancora, in campionato, nelle tante sfide tra Milan e Roma. In nazionale, il Mondiale 2006, quello degli eroi di Berlino, li vede trionfare, godendosi però la gioia solo a metà. Nesta si fa male nel terzo match e salta tutta la seconda fase. Totti si fa male pochi mesi prima, recupera a tempo record, ma al Mondiale non brilla. Entrambi lasciano la nazionale, proprio alla fine di quel Mondiale. Due scelte diverse, insomma, alla base delle carriere dei due uomini che hanno portato le romane al vertice del calcio italiano. Totti resta a Roma a vita, idolatrato dalla sua gente, ripagato da un senso di appartenenza difficile da capire e da spiegare, vince poco. Dopo lo scudetto, qualche Coppa Italia e niente di più. Alessandro quel senso d'appartenenza lo capisce come, forse un po' lo invidia. Il destino però lo ha portato a Milano, dove è diventato un pilastro di una squadra con cui, a differenza di Totti, ha vinto tutto. Uno scudetto, due coppe campioni, un mondiale per club, due supercoppe europee, una Coppa Italia. Nel suo cuore però, senza dubbio, rimane il ricordo di quelle sfide con Francesco, sui campi di terra battuta delle assolate periferie romane. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.